Siamo in collegamento telefonico con Stefano Strina per parlare di Prog Poetry and Wine a Trevignano Romano presso l'Associazione Culturale Vino e Calvino il prossimo 28 luglio. Stefano, ben trovato. Buonasera, buonasera agli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Senti, ci racconti? Allora, è molto semplice. Da qualche tempo abbiamo aperto questa associazione culturale, mi hanno coinvolto, a me quando ho sentito il nome Vino e Calvino, diciamo così, mi sono aperte diverse porte per il piacere di poter collaborare e tra le altre cose siamo nella piccola piazzetta medievale del paese dove c'è la sede di Vino e Calvino, organizzando dei piccoli concerti e eventi, perché la piazza è molto piccola, verrà 100-120 persone, non di più. E tra le altre cose, questa settimana, questo fine settimana, con Gerry Cutillo, che suona negli Hook, e per molti sono famosi per essere una cover band di Jethro Tull, ma non solo, che lui ha fatto un nuovo disco intitolato Giordano Bruno, e insomma diciamo che avremo bisogno di molta laicità in quest'ultimo periodo, e quindi Giordano Bruno ben venga. Abbiamo deciso, proprio perché è difficile poter organizzare un concerto con i suoni alti o elettrici alto, di proporre in versione acustica suoni dai Jethro Tull ai King Crimson, che hanno suonato ieri meravigliosi tra le altre cose, ai Genesis, agli Emerson, Lake & Palmer, ai Traffic. E dovremmo fare, perché ancora sto aspettando alcune conferme, anche una piccola intervista, presentazione di quello che è stato il Progressive e della condizione delle riviste musicali in questo momento, con alcuni musicisti di cui però non posso dare la conferma in questo momento, perché non ce l'ho, non peraltro. Ok, come sarà articolata la serata? Allora, la serata comincerà appunto verso le 9 con questa piccola spiegazione, e poi che durerà una mezz'ora, dovrebbe esserci sicuramente Maurizio Baiada, che per anni è stato un giornalista, insomma, celeberrimo per quanto riguarda il prog, se non sbaglio ha lavorato sia con Ciao 2001 sia con una rivista che è bellissima, che esisteva tantissimi anni fa, chiamata Muzak. E dopodiché 9:30-10 Gerry Cutillo con Renato Cossu ci faranno ascoltare diversi brani, come ho detto, in chiave acustica. E dunque, non c'è un biglietto d'ingresso perché essendo una piazza, però se uno vuole mangiare bene c'è da fare una tessera annuale che dà diritto a una cena e almeno un bicchiere di vino con 15 euro. Per chi invece già ha la tessera sono 10 euro per la cena. Se invece vuole solo bere, cosa che capita spesso, perché è un paese di ubriaconi, come dico io, allora bere soltanto il vino biologico, cena fatta in casa da noi, non da me perché sono una schiappa a cucinare, ma mia moglie, il mio socio e altri, loro sono decisamente bravi. Per cui I brani sono dei gruppi che mi hai citato prima. sì, prevalentemente Jethro Tull, perché lui è forse che si prestano di più dal punto di vista acustico, proprio perché per anni Ian Anderson è stato, insomma, essendo scozzese, innamorato di queste sonorità. Però poi ci sono anche diversi brani acustici dai Traffic, non so, John Butler con Mazdai, o Lucky Man di Emerson, Lake & Palmer e altri, di cui non ho chiesto i titoli, ma li faccio, li immagino facilmente. Quindi musica e vino, questa è la serata. Esattamente, eh sì, Vino e Calvino, tenderemo a fare poi nel tempo anche delle presentazioni di libri. La Ah, prossima settimana ok. deve venire Daniela Menta con Claudio Daguanno, e sto lavorando a dei nomi di scrittori italiani che amo molto e che gli ascoltatori di Onda Rossa dovrebbero apprezzare, anche perché hanno un indirizzo politico ben dichiarato. D'altronde. C'è un evento Facebook per saperne di più, giusto? Sì, esattamente, c'è una pagina Vino e Calvino, Associazione Culturale in Trevignano. Benissimo. Prog Poetry and Wine a Trevignano Romano presso l'Associazione Culturale Vino e Calvino il prossimo 28 luglio. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Stefano Strina. Stefano, un abbraccio e speriamo di vederci lì. Va bene, ti ringrazio Federico, buona Ciao. serata.